Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. A tenere banco tra la partita dell'Italia di sabato con la Bulgaria e quella di dopodomani col Montenegro a Lecce non sono tanto le risultanti dell'una e le proiezioni sull'altra, quanto l'incivile esibizione della pseudo tifoseria azzurra a Sofia. Si moltiplicano le prese di posizione, le notizie d'agenzia, le decisioni. Per esempio, il presidente della Federcalcio Abete ha detto stamane: basta biglietti per l'Italia all'estero. La Federcalcio non chiederà più biglietti per le partite dell'Italia all'estero, una posizione drastica, ma lui ha detto, ha spiegato fino a quando non si trova il modo di fare davvero un filtro efficace e definitivo, non possiamo correre questi rischi. Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico ed ex commissario straordinario della federazione, le considerazioni su quanto accaduto a Sofia può essere solo quelle che hanno fatto tutte le persone di buonsenso in queste ore in Italia e all'estero. È stata una vergogna che ha offeso il paese, ma soprattutto è stato offensivo nei confronti della nazionale, degli atleti, dei milioni di italiani che sostengono in maniera virtuosa i colori azzurri. Il capo della polizia, il prefetto Manganelli, colpire in maniera mirata i tifosi responsabili dei comportamenti violenti a Sofia. Manganelli ha preso contatto con le autorità bulgare per venire in possesso di tutte le informazioni utili, immagini, filmati e relazioni di servizio raccolte sui fatti accaduti. Il capo della polizia ha dato inoltre indicazioni perché la lista dei tifosi che hanno acquistato i biglietti per seguire la nazionale a Sofia sia diffusa alle questure di appartenenza dei soggetti, affinché i questori possano avviare accertamenti e verifiche sulle singole responsabilità in base ai filmati acquisiti. E poi le prese di posizione dei giocatori, Chiellini, Amelia, Cannavaro. Il concetto di base è: non si può andare avanti così. Forse anche in questo, come dire, leggermente rinvigoriti da un intervento di Sergio Campana, il loro presidente d'associazione, che aveva detto poco prima: effettivamente c'è anche un po' di timore da parte dei calciatori che hanno magari ricevuto minacce a sé o alle famiglie, e allora qualcuno evita di intervenire, di prendere posizione. Questo però non deve impedire che i calciatori, specialmente quelli di alto livello, si prendano le loro responsabilità. Ne parleremo più tardi, così come parleremo più tardi di Pepe, del suo buon esordio, di Giuseppe Rossi, direi anche migliore per quei pochi minuti, insomma le poche note, ma non tanto positive, perché poi l'Italia ha ottenuto quello che voleva, ma insomma le poche note che ci hanno tenuto svegli in una serata di sabato non esaltante da un lato e vergognosa dall'altro. Adesso parliamo di economia e di finanza. Perché? Ma perché oggi i mercati stanno tirando il fiato e tutti speriamo che non sia una cosa transitoria. Ma questo però non significa che fino a ieri tutti insieme abbiamo sognato, no? E allora io ho invitato il nostro amico Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Per cosa? Per studiare, proiettare la ricaduta di questa crisi mondiale economica finanziaria sul mondo dello sport e in particolare sulle società di calcio. Ora è molto facile partire dall'estero, partire per esempio dalla Premier League. Arriviamo all'Italia, perché il tema di oggi è l'Italia, e poi invece di Inghilterra e di altri paesi parleremo in un'altra puntata, magari già da domani stesso. La inquadro sull'Inghilterra perché? Perché da lì fioccano notizie davvero allarmanti. Quella di stamare è che il West Ham, per esempio, la società che ha appena assunto Zola, sta rischiando seriamente la bancarotta. Questo patron, uno dei tanti, no, finanzieri d'assalto che sono innamorati della Premier League, va a sapere quanto disinteressatamente ha perso 300 milioni di euro, quindi si teme il crack. Però c'è un altro miliardario indiano che sta spuntando. Il Sole nei giorni scorsi ha pubblicato alcune cifre che riguardano l'Arsenal, che sono veramente inquietanti. I debiti di Manchester e Chelsea, non ne parliamo. Platini, Blatter, Taylor, il segretario generale dell'UEFA, hanno detto con modalità diverse, ma insomma con accenti comunque forti, nei giorni scorsi: così non si può andare avanti, perché questa Premier League è un colosso coi piedi d'argilla. Allora ripeto, in dettaglio ne parliamo da domani in avanti, ma mi sembra che per inquadrare il problema sia il punto di partenza ideale. Perché, correggimi se sbaglio Marco, perché sei tu che ti occupi di economia e non io, perché mi sembra davvero la stessa situazione che ha prodotto il disastro dell'economia mondiale, e cioè qualcosa che sembrava solido, che sembrava che non dovesse mollare mai, che continuava a crescere, e invece poi aveva i piedi d'argilla. Beh, nessuno poteva illudersi che il calcio fosse un'isola felice da questo punto di vista. Molti hanno sempre additato, no, l'Inghilterra come, o la Premier League in generale, come un modello perfetto da imitare, con gli stati privati, società solide dal punto di vista finanziario, modelli insomma da seguire anche nel calcio italiano. Che abbiano le squadre inglesi tutti questi debiti però è un dato oggettivo, ma è un dato che finalmente la UEFA, mi viene da dire, ha scoperto. Ma non c'è nessuna novità in questa scoperta. Se vogliamo, è il clamore suscitato dall'aver appunto denunciato la situazione di indebitamento delle squadre e fatto intendere che dalla prossima stagione si potrebbe in qualche modo, no, vietare alle squadre indebitate la partecipazione e l'iscrizione alle coppe europee, che è qualcosa che sarebbe... Sì, che da un lato è una minaccia inedita, da un lato, con questa, cioè formulata con questa come dire, credibilità. Dall'altro però, insomma, arieggia, no? Qualcosa che abbiamo già sentito, e cioè, ragazzi, state attenti che se non, guardate che se no... Sì, sembrano delle ramanzine periodiche stucchevoli, ecco, che lasciano il tempo che trovano. La UEFA, la FIFA in generale devono capire cosa vogliono fare con il calcio. Continuare a intensificare, allargare i calendari, il numero di partite, comporta che le squadre debbano avere rose più ampie. Rose più ampie significa semplicemente più stipendi, più costi, ed è inevitabile che poi si arrivi a queste conseguenze. Allora, la UEFA o decide di, non so, ispirarsi al modello della Comunità Europea, che... e come dire, osteggiata in molti paesi, ma ha avuto il grande merito di dare ordine ai bilanci dei singoli paesi membri, o sì, comunque indicare una strada. Cioè, non ci deve essere un paese che ha un indebitamento, diciamo, superiore a una certa soglia del suo patrimonio. Per cui o la UEFA decide di rivedere tutte le regole contabili e fiscali delle società di calcio e dice: signori, da oggi in poi chi ha un certo patrimonio non può indebitarsi oltre una certa percentuale, se hai un patrimonio di 1 miliardo non puoi indebitarti di più. Ti interrompo, Marco, perché mi sembra di capire le tue parole, e io sono d'accordissimo con te, che in realtà cosa dovrebbe fare il calcio oggi? Più o meno quello che hanno fatto ieri i grandi a Parigi e forse il giorno prima negli Stati Uniti, a occhio. No, poi per carità, sono due livelli molto, molto diversi di gravità e di coinvolgimento planetario, sicché lasciamo che siano i grandi a occuparsi di queste cose. Qui stiamo parlando di un settore marginale, ma il principio però dovrebbe essere lo stesso. Il principio è lo stesso, anche perché nel corso degli anni 90 noi abbiamo assistito a una trasformazione di quelle che sono le società che gestiscono le squadre di calcio. Da associazioni sportive, associazioni di quartiere o di paese, sono diventate delle società per azioni che fanno profitti, molte sono quotate in borsa, e tra un po' arriveremo a parlare anche di quelle italiane di questo, che sono quotate, certo, in borsa, per cui determinati canoni contabili devono essere rispettati. Da qui a dire che insomma si debba applicare rigorosamente le regole della Comunità Europea che riguardano gli stati, insomma, ce ne passa, ma basterebbe anche fare cose più semplici. Per esempio, non so, mi viene in mente, un po' scherzando, un po' no, di dire, insomma, seguiamo le regole che si usano per il fantacalcio. Chiunque fantacalcio. Del fantacalcio, ora, cioè, al di là della battuta, però. No, ma cioè? Chiunque, insomma, sono tantissimi gli appassionati in Italia che giocano al fantacalcio, che fanno le proprie squadre, che diventano manager di una squadra e hanno un certo budget, possono vendere, acquistare giocatori, ma non possono scendere, insomma, al di sotto di una certa soglia, insomma, non possono andare in rosso. Cioè, tu hai anche la parte, perché io confesso la mia ignoranza in materia, e cioè il fantacalcio non consiste soltanto nel fare delle formazioni, no, cioè, c'è anche una parte societaria, come assolutamente, dire, a monte, quindi sì, è chiaramente un gioco, ma c'è un principio, che è quello che tutti debbano partire con gli stessi soldi, tutti debbano avere lo stesso budget, e quindi chi vuole acquistare, diciamo, determinati giocatori più bravi deve essere bravo non solo ad allestire formazioni competitive, ma anche a gestire il bilancio in maniera... Ma a farlo con quelle risorse. Esattamente. E con le stesse risorse degli altri. Si tratta di quelle regole etiche che vengono invocate a più riprese nei momenti di crisi e che poi vengono puntualmente dimenticate, ma che sono fondamentali. Allora, o si decide alla base di applicare regole uguali per tutti, ma di essere tassativi, oppure questi richiami che ci vengono dalla UEFA o anche dalle federazioni nazionali, ripeto, mi sembrano stucchevoli e deleteri, perché alla fine non si raggiunge alcun risultato oggettivo. Perfetto, infatti, parafrasando Scopigno, che un giorno celeberrima nel 1970 vide Nicolai, il suo stopper del Cagliari specializzato in autoreti, lo vide entrare a sostituire Rosato in una partita dell'Italia ai mondiali messicani e disse: tutto avrei pensato alla vita meno che da vedere Nicolai via satellite. Alla stessa maniera, e fratto 100 evidentemente, mi viene da dire personalmente, tutto avrebbe stato nella vita meno che di sentir tessere senza obiettare nulla e anzi sottoscrivendo in pieno l'elogio del fantacalcio. Beh, il fantacalcio qua principio... si ispira a dei principi etici. Ora, o si invocano principi etici e ci si comporta di conseguenza, oppure è inutile stare a imputare i debiti di una società piuttosto che dell'altra, perché chi più chi meno, le società che si muovono nel mondo del calcio hanno tutti dei debiti. Questa è bella davvero, e ti ripeto, per quel che mi riguarda è rivoluzionaria, però il concetto c'è e ci sta tutto in pieno. Poi è ovvio che il fantacalcio appunto è una realtà virtuale, quindi si sta parlando di un'utopia in assoluto, però è altrettanto vero che un richiamo all'ordine per fissare perché sennò siamo sempre siamo alle solite, a quelle che tu ricordavi prima, a quelle che poi faremo i dettagli e le cifre in particolare inglesi nei prossimi giorni, insomma, giusto per spararne una, l'indebitamento dell'Arsenal l'indebitamento della Premier League è arrivata a complessivamente circa 3 miliardi di sterline nei confronti delle banche. Ora 3 miliardi di sterline in euro che fa 3, 9, cioè 4, sì, 4 insomma, circa. Parliamo quasi di una mini finanziaria. Insomma, sono cifre che devono far riflettere. Poi c'è qua Renato da Vittorio Veneto che scrive: sì, ma i proventi delle società inglesi non sono indifferenti. Ma io credo che ci sia, ripeto, una questione alla base da risolvere. Se una società di calcio deve fare utili, allora deve rispettare regole di bilancio, ed è chiaro che le società inglesi hanno grossi proventi ma hanno anche spese o indebitamenti molto alti, e allora o si fissano dei parametri oppure è completamente inutile e fuorviante parlare dei debiti delle società di calcio. Mm-hmm. Il signor Abramovic, tanto per fare un esempio inglese, rimanere oltre manica, può tranquillamente utilizzare il suo capitale personale e privato per comprarsi i giocatori più forti, fare la squadra dei sogni, e se non ci sono regole che vietano di indebitarsi oltre una certa soglia, nessuno glielo vieta, ci perde di tasca sua. Cioè, hai detto Abramovic, potresti fare anche cognomi meno esotici, non puoi fare cognomi italiani, assolutamente italianissimi. Però se si arriva poi, come ha fatto Galliani, a lanciare l'allarme venerdì scorso, e si arriva, non so, a una situazione come la Serie B, dove ci si deve inventare ora lo spalma stipendi per sopravvivere, cioè le squadre dovranno in qualche modo patteggiare con i calciatori, insomma, la possibilità di pagare gli stipendi a rate, è chiaro che qualcosa non funziona nel sistema contabile, ma non funziona, se vogliamo, nemmeno nella organizzazione del calcio. Ora ho letto stamattina che anche la Bundesliga sta pensando di arrivare a 18 squadre e la Serie B dovrà essere ridotta. 42 squadre italiane, insomma, di professionisti, tra A e B sono troppe. Ci arriviamo in dettaglio proprio per quel che riguarda la situazione italiana di alcuni club, ovviamente che sono i più chiacchierati e non da oggi, ma che risentono a maggior ragione di un momento come questo. Torniamo, siamo in compagnia di Marco Bellinazzo, del Sole 24 Ore, ve lo ricordo. Torniamo sull'argomento portante di oggi, anche se poi con i vostri interventi in diretta ce ne saranno altri. E veniamo all'Italia e veniamo al dettaglio. Poi torno a dirti, nei prossimi giorni non ci mancherà il tempo di esibirci sulla situazione all'estero e in particolare in Inghilterra. In Italia, allora, le conseguenze della crisi economica, perché da lì siamo partiti, sulle società di calcio. Quindi temo sia inevitabile, come prima società, fare il nome della Roma. Sì, perché il discorso che facevamo prima, riprendo un attimo qui la storia di Abramovic che abbiamo usato come esempio, ma possiamo, come dire, portarlo nella penisola e parlare, non so, di Moratti o di Mediaset, che sono alle spalle, insomma, certo, di Inter e Milan. Va bene finché si tratta di società non quotate, dove c'è un ticun, un proprietario che vuole spendere dei soldi, può farlo liberamente, altrimenti meno che non ci siano delle regole, poi si finisce per fare del stupido moralismo. Discorso completamente diverso ovviamente quando le società sono quotate, come nel caso della Roma, quando si va sul mercato e si chiedono soldi ai cittadini, ai risparmiatori. La situazione della Roma effettivamente è quella più critica, se ne è parlato tanto, addirittura è dovuto intervenire Unicredit, che è la banca creditrice della Roma, più volte per smentire di aver fatto pressioni in questi giorni per un rientro. La Roma deve a Unicredit 130 milioni da qui a fine anno, ed è effettivamente una somma che 130 milioni da qui a fine anno deve restituire questi soldi, insomma. La famiglia deve, tu usi il presente indicativo, c'è il condizionale, dovrà restituirli, insomma, con quello che si sente in giro, insomma, è anche difficile trovare la modalità espressiva giusta. In ogni caso c'è un indebitamento globale che fa riferimento alla compagnia Italpetroli della famiglia Sensi, che è proprietaria, certo, della Roma, che è di oltre 350 milioni. 130 di questi dovranno essere restituiti entro il 31 dicembre. La Roma ha perso, se vogliamo, anche non tantissimo rispetto a quelle che sono le percentuali di perdita dei valori in borsa. Dall'inizio dell'anno ha perso il 24% e nell'ultimo mese il 22%, insomma, il valore azionario ha perso un quarto, insomma, del suo. Questa starebbe molto meno peggio di ben altri colossi, per la verità. Sì, starebbe, se non avesse alle spalle questo indebitamento. Poi dovrà essere ora la famiglia Sensi a decidere in che modo, come dire, ripianare questi debiti, se vendendo dei terreni che possiede, se vendendo la società, se vendendo la Roma. Si è parlato, no, prima dell'estate, di Soros vari, ma si è sempre parlato, vero? Ticun americani, insomma. Certo, dovranno spendere un po' di soldi per comprare la Roma. Vedremo se il gioco vale la candela dal loro punto di vista. Finora sembra di no, insomma. Dichiarazione di intenti. Di intenti sempre vediamo. La situazione della Lazio e della Juventus, che sono le altre due quotate in borsa, è ben diversa, perlomeno psicologicamente. Poi forse le perdite di borsa sono anche superiori. Però. Ma la Juve dall'inizio dell'anno il titolo ha perso il 48%, anche se devo dire l'ultimo lancio di agenzia sulla borsa parla di un recupero stamattina del 10%, insomma, che è legato in generale al rimbalzo tecnico che c'è in borsa. Ma anche qui c'è stata una perdita del 36% soltanto nell'ultimo mese, e insomma l'IFIL e la Fiat dovranno in qualche modo tener conto di questo dato. La Lazio ha perso di meno, insomma, il 10% nell'ultimo mese, che è la perdita poi in realtà su tutto l'anno, perché aveva recuperato con le buone vicende, diciamo, agonistiche della squadra. Lotito, peraltro, è uno di quelli che, comunque la si pensi sulla sua gestione, ha sempre avuto le idee molto chiare sulla privatizzazione degli stadi, sulla, certo, un approccio, diciamo, manageriale e sano ai conti, e finora ha fatto un po' il grillo parlante, diciamo, del calcio italiano. Magari, insomma, verrà ascoltato di più nei prossimi mesi nell'ambito della, magari usando la simultanea, insomma, no? L'altro, però, quello che ha detto finora si è manifestato. È vero, di questo gli va certamente dato atto. Senti, siamo partiti da una situazione oggettiva, facile da individuare, la Roma, per via di riferimento a Unicredit, però ci sono altre società che, pur non essendo quotate in borsa, sono certamente riconducibili a dei gruppi patrimoniali. Assolutamente, avranno. Su questa la crisi come si è. Se per esempio pensiamo, insomma, alla Fiorentina, altra delle squadre che gioca in Champions, la Todds dei fratelli della Valle ha perso anche qui nell'anno circa il 50% del suo valore in borsa, e lo stesso su queste cifre più o meno anche la ERG dei fratelli Garrone della Sampdoria, la società di Cairo che gestisce il Torino. Insomma, sono perdite queste proprio in linea con quanto il mercato ha subito, insomma, in queste settimane, in questi mesi. Chiaramente avranno un effetto indiretto, ma ce l'avranno su quella che è la gestione societaria, non so, per la Fiorentina. Sai, Marco, io approfitterei della tua presenza. No, ma non voglio interromperti, ma è molto chiaro quello che stai dicendo. Ma io approfitterei della tua presenza, perché arrivano delle domande per iscritto a cui io, quando mi lasci qua, quando mi abbandoni, poi non sono più in grado di rispondere. Daniele ne dice una, secondo me, bellissima. Dice: ma non credete che il solo fatto che una società di calcio si possa quotare in borsa è la dimostrazione della follia di queste regole di mercato? Ci aggiungerei, e secondo me lo voleva aggiungere Daniele, cioè la prova del 9 è che l'economia mondiale in questi anni, non mica quella italiana, era stata troppo presa dalla fantasia e si reggeva sulle legrucce anziché su dei piedi veri. Questa potrebbe essere una prova, dice Daniele. Questo secondo me è un esempio di quanto sia stato, diciamo, avventato diciamo, il trasformare l'economia reale in un'economia finanziaria. Certo. Quotare le squadre di calcio, le società che gestiscono squadre di calcio, che sono state sempre, diciamo, come dire, in bilico sui bilanci, è sicuramente un esempio di come si sia creduto nel valore salvifico della borsa, diciamo, nel continuo rialzo dei titoli, e come dimostra quello che sta accadendo, ciò non è affatto vero. Quindi chi ha acquistato quei titoli si trova oggi forse con un po' di problemi. In più, diciamo, aggiungerei che il problema è spesso legato alle quotazioni delle società sportive, è l'assurdo, diciamo, connubio che si viene a creare tra quelli che sono, diciamo, i risultati sportivi e la quotazione in borsa. Certo. La quotazione in borsa dovrebbe essere legata ai valori patrimoniali di una società. I risultati sportivi, il fatto che una società la domenica possa perdere o vincere, insomma, dovrebbero restare un attimo in secondo piano. E mi sta venendo in mente, mentre ti ascolto, che quando, una decina di anni fa, anche meno, io per esempio e alcuni altri, non tanti per la verità, sostenevamo queste tesi, passavamo da retrogradi e da passatisti, e ovviamente eravamo spernacchiati dai fan di Cragnotti, dai fan di Giraudo, no? Di queste stupende persone che hanno dato un'impennata alla nostra economia, oltre che all'etica del mondo calcistico. Ci hai fatto un quadro, insomma, il quadro che non poteva non risultare. Mi piacerebbe che tu chiudessi, visto che ci manca un minuto circa all'intervallo, e poi vi ricordo che all'800 24 00 24 andremo avanti a parlare di questo argomento, ma anche di altri più affini, diciamo, a una giornata come lunedì, che chiudessi su quell'allarme vagamente catastrofista che Galliani ha fatto venerdì, a cui già hai fatto cenno, e cioè catastrofista poi però non fino a un certo punto, nel senso che lui dice la situazione dell'economia mondiale è tale che, è vero, noi adesso ci preoccupiamo di bilanci, di cose, cioè, ma quanti sponsor sono disposti a restare in questo mondo? Quanti abbonati alla Pay TV, che sappiamo benissimo essere la spina dorsale, resisteranno all'impatto del, so, io la chiamo inflazione, potrebbe essere qualsiasi cosa, la recessione o quello che è. E quindi sì, catastrofista, ma poi fino a un certo punto forse. Beh, quello che dovrà avvenire adesso, insomma, ma lo dicono gli analisti, non sono io, come dire, non ho l'autorità per dirlo, è che ci sarà, insomma, un impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, e la preoccupazione di Galliani deriva proprio da questo, cioè dal fatto che dal singolo spettatore o fruitore di calcio che dovrà, non so, per il suo piccolo bilancio familiare rinunciare all'abbonamento a Mediaset o a Sky, insomma, per guardarsi le partite, agli sponsor che potranno ritenere meno conveniente, dovranno ridurre le spese in pubblicità, si tratta appunto di entrate che verranno meno. E se pensiamo che c'è in atto un braccio di ferro tra Serie A e Serie B sulla mutualità, su quanti soldi devono essere dati, si parla di circa di 79-80 milioni di euro che dovrebbero in qualche modo rappresentare un salvagente per la Serie B, con i conti che ci sono rappresentano effettivamente una goccia, insomma, al mare, si capisce che la situazione è grave e si deve fare qualcosa. La federazione, la Lega stanno pensando per esempio a ridurre le squadre del campionato di B dal prossimo anno, magari anche in Serie A questo dovrà essere fatto. Il discorso appunto è che l'economia italiana, la situazione come italiana in generale, forse come dicevo prima, 44 squadre tra Serie A e B non se le può più permettere, e questo è un punto di cosa. L'altro, vagamente più topico, che dovremmo, ho imparato oggi, prendere esempio dal fantacalcio. Ti ringrazio anche di questo, Marco Bellinazzo, perché sinceramente, lo ripeto, non pensavo mai che ci sarei arrivato. Beh, sentire questa notizia dell'ANSA. Ieri, 12 ottobre, durante la partita di calcio San Nicola Sulmona Castel di Sangro, di prima categoria, di eccellenza, un tifoso ha acceso un petardo di grosse dimensioni che è scoppiato, lo ha ferito e ha ferito altri tifosi vicini a lui. Questo tifoso ha subito l'amputazione di 3 dita proprio a causa di questo scoppio, di questo petardo. Ora deve rispondere di lesioni aggravate, oltre che di lancio di artifici pirotecnici e poi tutto il resto, DASPO e finché ce n'è, e ci ha rimesso già 3 dita. Voi dite, vabbè, non è un tifoso, è un deficiente. Sì, certo, ma è anche un allenatore di calcio, soprattutto un allenatore di calcio di una squadra di prima categoria, per l'appunto il Pacentro, e ha pensato bene ieri, visto che evidentemente la sua squadra riposava, di andare a Sulmona a compiere questa impresa. Mirko ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Tanto questa bellissima notizia mi ha rallegrato, quanto un deficiente perde 3 dita per me è festa. Beh, dunque, entro se certi limiti. No, ma l'importante è che non facciano del male agli altri, no? Questo se lo fanno è... se stessi, per me è festa. Questa è la base. Festa magari è troppo, però diciamo che certamente è un male molto molto minore. Sì, beh, comunque... Mi ha rallegrato la cosa. Comunque, ascolti, io volevo dire questo. Avevo detto a chi risponde al telefono che volevo parlare di Italia e Bulgaria, ma poi il vostro interessantissimo argomento sui bilanci mi ha messo in difficoltà. Per cui due cose brevi su entrambi gli argomenti. Italia e Bulgaria. Il mio dilemma, caro Garanzini, è questo. Il governo è specchio della società o la società è specchio del governo? Saluto Romano, lo fanno anche in Parlamento. Questi ragazzi, sentivo stamattina la RAI, da Italo Cucci, hanno anche un avvocato al seguito, hanno tutta un'organizzazione. Beh, voglio dire, non penso che 100 esaltati da soli possano fare tutto questo, per cui dobbiamo interrogarsi, secondo me, a livello più profondo. Seconda e ultima cosa riguardo i bilanci. La mia domanda è questa: perché quando le cose vanno bene ci guadagnano in pochi e perché quando vanno male ci perdiamo tutti? Questa è una domanda epocale, caro Mirko, e non sono certamente io, povero un torello, che potrò spianare Milano e potrò spezzare questa verità assoluta, peraltro rivelata nella fattispecie, ma insomma non sono certamente all'altezza. La sua una riflessione, non è soltanto un aforisma, ma è purtroppo una grande verità. Fabrizio ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io condanno il fatto che degli italiani vadano in un paese estero e commettano certi fatti. Dobbiamo anche ricordare che quegli italiani si trovano in un paese per cui non esiste il reato di apologia del fascismo, per cui a parte il tifoso che ha bruciato la bandiera, gli altri non dovrebbero essere sottoposti a sanzioni, almeno da parte della Bulgaria. Sì, è vero Fabrizio, questa è la tesi. Un attimo, concludo. Sì, prego. Dovrebbe farci capire il fatto che comunque in generale occorre distinguere fra dei comportamenti disdicevoli, quelli di sabato, e fatti invece comportamenti penalmente rilevanti che possono invece essere quelli, per esempio, che riguardano il fatto di distruggere treni, di devastare stadi e di distruggere le piazze. Secondo me chi vuole esprimere delle idee in un paese democratico dovrebbe avere la possibilità di farlo, poi sì, spetta la loro intelligenza, magari nelle sedi opportune. Certo, magari anche esportandole, no? Come nella fattispecie. La sua tesi, Fabrizio, è la stessa che ha avuto a caldo il direttore dell'osservatorio Mazzilli. Mazzilli ha detto quei cori all'estero non sono reato. Poi forse qualcuno è intervenuto a spiegare al direttore dell'osservatorio che già lui dirige un ente, a parer mio, inutile. Insomma, se perlomeno oltre a questo, insomma, si evitava di queste uscite, che sono leggermente diverse come peso da quelle invece di un ascoltatore che ha il diritto, insomma, che diciamo ha un po' meno di peso di responsabilità, ecco, già saremo a un buon punto. Infatti poi Mazzilli si è corretto, non ho la pretesa che lo faccia anche lei, ci mancherebbe. C'è Giuseppe in linea da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Dica. Io volevo ritornare sull'argomento che ho trattato in trasmissione. Sì. Mi ha sorpreso sentirla felice delle regole del fantacalcio, ma in realtà negli Stati Uniti queste regole sono di fatto. Un team professionistico negli Stati Uniti ha un tetto massimo di spesa che può affrontare ogni anno, dipende dagli abbonati, dagli incassi, dai diritti televisivi che percepisce, e funziona così da sempre lì. E non ci sono problemi. Se poi una squadra non ha pubblico, non ha seguito e viene richiesto in un'altra città, se nell'altra città garantiscono abbonati, garantiscono infrastrutture, tutto quello che serve, può andare nell'altra città. Probabilmente è un sistema troppo legato allo spettacolo, e per noi in Europa che siamo troppo legati al tifo spinterebbe qualcuno, forse troppi. Per cui anche la squadretta con 500 milioni di euro di debiti può ambire a vincere il campionato e pesare sulle tasche di tutti. Da altre parti non funziona così. Certo. Io credo che senza arrivare a questo modello perfetto, che poi a parer mio perfetto non è, perché è persino troppo, perché è l'eccesso opposto della NBA o di questi soliti riferimenti, io credo che con tutto... Senza arrivare lì, un minimo di ridistribuzione delle risorse e quindi di non dico di armi pari nell'allestire una squadra, nell'investire, ma insomma un po' più di equilibrio per l'appunto sarebbero il sale per rendere più interessanti le competizioni, ma ovviamente sono discorsi che i ricchi non vogliono ascoltare e neanche quelli che poi invece ricchi non sono e di cui parlavamo prima, no? Perché poi... perché poi per esempio in Premier League sono le società più indebitate al momento che stanno vincendo e stravincendo tutto. Da ciò che ha detto il direttore dell'osservatorio sugli entrai italiani si capisce che non siamo in gran buone mani, scrive Daniele da Venezia. Sì, certo, Daniele, e temo che non sia nemmeno una strepitosa novità. Dalla provincia di Padova ha chiamato Isa, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. L'ascolto sempre. Comunque, anche se con tutti i fatti che sono successi sono preoccupata, no? Anche se la mia colore di pelle è bianca, no? Anche. Però se questa azienda ha avuto questa gran visibilità e costi alti di razzismo, io mi preoccuperei e direi, visto che i tifosi, tra virgolette, sempre, se no mi tirano i punti dal primo stesso giorno. E visto che i tifosi, i hooligan, i finanzia, fra virgolette, i club, questi qua chi finanzia o si autofinanziano? È una bella domanda. Sono solamente preoccupato, tutto lì. Lo credo, non credo che sia, non credo di essere l'unico. E chi dice ha cominciato Cannavaro l'altra sera, no? Perché non si sa mai, così stiamo tranquilli. Chi dice che queste sono cose che occorrerebbe ignorare? Beh, io direi che sono state ignorate anche troppo a lungo. Invece adesso devono avere le giuste sottolineature e le riflessioni che ne conseguono da parte di chi poi le vuol fare, insomma, o ha ancora la forza, visto che da tanti punti di vista ci stanno un tantinello snervando. Il messaggio più divertente di oggi l'ha firmato Dani da Milano, ma non potreste fare un po' di pubblicità ogni tanto? Ha scritto. Sentiamo Nicola Filippone e il suo ripasso di storia. Sembra ieri. 13 ottobre 1984. Il francese Bernard Hinault si aggiudica la 78esima edizione del Giro di Lombardia, arrivando al traguardo di Como con circa un minuto di vantaggio sul gruppo dei primi inseguitori. Per Hinault, il successo nella classica lombarda che chiude la stagione è l'ultimo in carriera in una grande gara in linea. L'anno successivo punterà tutto sulle corse a tappe e riuscirà a conquistare nella stessa stagione il suo terzo Giro d'Italia e il quinto Tour de France. Nel 1986, dopo aver chiuso il Tour al secondo posto alle spalle dello statunitense Greg LeMond, deciderà di chiudere la carriera a 32 anni con un bilancio di 18 grandi corse vinte, 10 in linea e 8 a tappe. Facciamo conoscenza finale di programma, poi avremo tempo nei prossimi giorni, visto che siamo all'antivigilia Italia-Montenegro, con i due nuovi, insomma, della nazionale, i due nuovi veri, quelli che più ci hanno divertito, perché Montolivo non si può dire che ci sia riuscito. Quindi innanzitutto quest'ala interessante dell'Udinese. Pepe. Io le punizioni, si parlava con Daniele, la prima l'ho tirata discretamente, la seconda è inguardabile, però non c'è problema, io se c'è la possibilità ci provo. Sulle punizioni, vediamo invece, è un frammento altrettanto breve, quello di Giuseppe Rossi. È stato un bel momento, quello sicuramente, è la prima partita con la nazionale, è sempre qualcosa di bellissimo, era un sogno da bambino, quindi sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto lo credo, anche se poteva addirittura essere di più, perché quell'assist per Girardino... forse perché è stato l'unico, insomma, nell'intera partita, ma certamente è stata la cosa migliore, di gran lunga migliore che si sia vista. Torniamo agli amici già in linea. Maurizio da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti a lei, ma soprattutto ai suoi collaboratori che sono sempre gentilissimi. Sì. Una sola domanda, semplice. Una constatazione più che altro. Fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, le società non erano a scopo di lucro. Dopo che lo sono diventate, secondo me, se guardate solamente all'interesse tra virgolette personale, perdendo anche l'amore che si aveva una volta dei vecchi presidenti per le squadre. Ecco, un suo giudizio, se condivide, la vede come me. La visione un po' di questo calcio che secondo me sta andando un po' a rotoli, bisognerebbe tornare indietro di qualche decennio per apprezzare proprio il gusto di andare allo stadio e di gustarsi le partite per quelle che sono. Sì, certo, le partite le gustiamo ancora finché ci si potrà permettere di andare allo stadio, da un lato per il caro biglietti, dall'altro perché sono così ben frequentati come purtroppo sappiamo. Insomma, il calcio dentro il campo può essere cambiato in meglio o in peggio, può essere più o meno divertente in un tempo, questo dipende dai gusti, ed è un altro discorso. È enormemente cambiato fuori, soprattutto cambiato, come dice lei, insomma, quando dall'economia è emigrato nel campo della finanza, e poi della finanza acrobatica, e poi della finanza speculativa. Questo insomma, in linea di massima, poi sono rimaste le eccezioni, ma sono sempre meno numerose, e comunque è un mondo indubbiamente pesantemente inquinato. Niente di nuovo, purtroppo. Nuova invece questa pizza, leggo la pizza Lavezzi, è una notizia d'agenzia appena battuta da Napoli. C'è questa pizzeria celebre napoletana che ha dedicato al Pocio, a Lavezzi, una pizza speciale che è ricoperta per una parte da crema e quattro formaggi con zucchine, prosciutto cotto e mozzarella, e per un'altra da pomodori, mozzarella, salsicce e friarielli. E però l'artista ci ha aggiunto un pizzico di peperoncino perché dice il Pocio è piccante nelle sue giocate. Non è una notizia fondamentale, mi rendo conto, ma è giusto per provare a strappare un sorriso tra questi argomenti non particolarmente eccitanti. Fausto in linea da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Sgrantini. Dica. Ascolti, io volevo rammentarne, non so se si ricorda, il famoso decreto salva calcio che sì. È successo un po' di anni fa, giusto per ricordare che non solo c'è un discorso economico, c'è anche un discorso politico, secondo me, a monte. Ormai è un discorso irreversibile, cioè nel senso che sia dal lato economico che di gestione, ormai è un baraccone che a mio parere non può stare più in piedi. Io ho esperienze, io ho un bimbo che gioca nei giovanili, io vedo genitori che con un bimbo di 9 anni pensano già di avere il mutuo pagato della macchina che hanno appena preso, cioè stiamo arrivando a un circolo chiuso, secondo me. Quando poi il lato economico non regge più e subentra la politica per salvare una cosa del genere, mi sembra un po', insomma, almeno a mio parere i capolini siamo già arrivati da un bel po' di tempo. Secondo me ormai il dado è tratto, come si dice. Sì, sì, sì, di fatto. Cosa vuole che dica Fausto? Purtroppo. No, io ho raggiunto queste considerazioni perché ormai sono dati di fatto e ognuno aspetta il miliardario che solleva la sua squadra del cuore, ormai si spera solo in quello, perché ma di certo ci si è. ci si è sempre un po' sperato, no, Pepe, in questo, cioè il cavaliere bianco è sempre stato il sogno di qualsiasi tifoso, perlomeno di quelli che non ce l'avevano. Forse oggi i cavalieri bianchi arrivano persino con troppa facilità, invece magari non per tutti, però ce n'è persino troppi, ed è su questo, per esempio, che la FIFA e l'UEFA invitano a stringere un tantinello i freni, no? E stanno provando loro in prima persona a farlo. Da Novara ha chiamato Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire la mia su quello che è il discorso della gestione delle società sportive in generale. Sì. In specifico poteva essere il calcio, dove gli sponsor sono molto esposti finanziariamente, l'automobilismo sportivo, qualche anno fa se si ricorda anche l'offshore, dove sponsorizzare uno scafo costava centinaia di milioni, allora si parlava di lire. Sì. Il mondo del calcio, il mondo dell'automobilismo e anche altri mondi sportivi, il ciclismo ultimamente, stanno in piedi anche perché ci sono gli sponsor. Per andarsi a prendere gli sponsor bisogna offrire qualche cosa allo sponsor, non bisogna dargli solamente il traguardo, bisogna dargli un ritorno. Non so se lei ha già capito cosa voglio dire, se no glielo spiego. Il ritorno lo fanno delle agenzie, delle società, a cui io tra l'altro partecipavo, una di queste, e il ritorno è: io ti do 100 e tu mi rendi in fatture 300, 500, 1000. A seconda della possibilità di fare o non fare certe situazioni. Detto questo, uno dice: ma come fai? Semplicemente facendo delle fatture. Le fatture si gonfiano, le società di gestione si gonfiano, gli fatturati si gonfiano, le spese si gonfiano, altrimenti non si possono giustificare i 30, 40, 50 milioni di euro che sulla carta una società spende. Certo. Poi uno dice: ma quello lì avrà preso 40 miliardi, non è vero? Non è vero, no. Li ha presi 40 sulla carta, veri non lo sappiamo, molto meno, perché se io vado a guardare qualche imponibile di qualche giocatore che è uscito purtroppo sui giornali, di qualche giocatore di calcio che prende 10 milioni di euro di ingaggio, 7 o 5, e ha dichiarato 1 milione di euro all'anno, di imponibile c'è qualcosa che non quadra, giusto? Dice, vuol dire, non soltanto nel calcio, per carità, lei ci ha fatto uno spaccato di un'esperienza che ha vissuto e che si riferisce a quel mondo, poi purtroppo noi viviamo in quel tipo di paese e stiamo scoprendo proprio in questi giorni, da questa crisi planetaria, che viviamo in un mondo, grosso modo, che è molto ma molto simile a quello che lei ha attestato e che oggi ci ha raccontato. Grazie, c'era Carmelo Lauricena in regia, c'era Flavio Suarni in redazione, l'appuntamento come sempre per domani.